Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, comincio stasera con un'avvertenza. Se c'è qualcuno di voi che è un vegano o una vegana, beh, cambi subito stazione, amici come prima, perché stasera parleremo di un libro per no vegani. Questo è proprio il titolo del libro di Luca Voledo, che è un nutrizionista, che ha scritto No Vegan, la verità scientifica oltre le mode, pubblicato da Spelling & Kuffer, 308 pagine, 17 euro. Questo non è un libro contro i vegani, anzi li rispetta, ma semplicemente vuole contestare una cosa che l'autore ritiene non più tollerabile, cioè il tentativo più o meno orchestrato, e a cui i media fanno frequentemente da critica cassa di risonanza, di convertire il mondo alla scelta vegana. Un tentativo, aggiunge, non supportato da sufficienti evidenze scientifiche, quando non addirittura condito da imprecisioni, approssimazioni, distorsioni, manipolazioni, esplicite falsità, che fa leva sulla suggestionabilità e a volte viene messo in atto anche con violenza verbale e persino fisica, con buona pace del trito refrain vegano che a rendere aggressivo sarebbe il consumo di carne. Quindi troviamo nel libro un'analisi su questi equivoci, un'analisi rivolta appunto, come dicevo, a chi ancora vegano non è. Coi vegani l'autore confessa di aver provato più volte a discuterci, decine di volte, senza alcun esito, perché precisa: un vegano ragiona per dogma, ecco, vedete, sto già generalizzando, dice l'autore, ed è impermeabile a qualunque logica, evidenza, prova scientifica, affermazione autorevole che contrasti con quanto ciecamente crede. E allora qui troviamo la storia del movimento vegano, che oggi calcola rappresenta circa il 3% della popolazione italiana. Poi troviamo i vari generi di veganesimo, anzi i vari livelli di ortodossia: il veganismo, il vegetarianismo o vegetarismo, il fruttarismo, il melarismo e il crudismo. E un elenco anche delle ragioni per cui si diventa vegani e perché il veganesimo abbia assunto le forme di una vera e propria ideologia. E infine gli equivoci, gli errori che adesso a Voledo ci spiega. Buonasera Luca Voledo. Buonasera. Luca Voledo, lei spiega nelle prime righe di questo libro di aver sentito improvviso il bisogno di scriverlo, che infatti definisce questo libro inaspettato, improvviso e imperativo. Che cosa l'ha spinta allora a questa impresa? Mi ha spinto il fatto che, occupandomi ormai da diversi anni di educazione alimentare, ho trovato una crescente attenzione a certi temi, ma una crescente preoccupazione ai temi alimentari, e in particolare una tendenza a essere spaventati da alcuni cibi, in particolare i cibi di derivazione animale, la carne in primis, perché una certa comunicazione, per certa parte anche instradata ad arte, tende a demonizzare i cibi che sono perfettamente sani. Quali sono i rischi allora che corrono i vegani potenziali? La dieta vegana fa correre alcuni rischi, ma prima ancora la mia preoccupazione era quella di cercare di evidenziare che non è una dieta così sana o la più sana addirittura come molti vegani sostengono. Quindi la mia prima attenzione era proprio quella di cercare di fare piazza pulita su questo dogma che dovremmo tutti diventare vegani perché è la dieta più sana in assoluto. Questo non è. Anzi, mi ricollego alla sua domanda, la dieta vegana presenta alcuni rischi se non condotta bene. E non è poi così intuitivo, non è così facile, non è così immediato condurre bene una dieta limitativa che esclude totalmente tutti i cibi di derivazione animale. E questo comporta una serie di rischi, in particolare di carenze di alcuni nutrienti, sono la vitamina B12, lo zinco, il ferro, la vitamina D, eccetera, eccetera, che se carenze protratte nel tempo possono provocare una serie di problemi di salute anche molto gravi. Lei ha usato adesso la parola dogma, infatti definisce il veganesimo come un'ideologia, con i suoi talebani addirittura. È corretto. Il veganesimo o veganismo, che dir si voglia, sono una vera e propria ideologia, che è nata ormai una settantina di anni fa in Inghilterra, che è mossa dall'idea di non utilizzare gli animali in nessun modo, non solo da un punto di vista alimentare. La dieta vegana è la declinazione alimentare del veganismo, ma il vero vegano, quello duro e puro, quello ideologico, quello di una volta, insomma, diciamo così, si oppone anche all'utilizzo degli animali per farne vestiario, per gli arredi della macchina, quindi sedili in pelle, piuttosto che gli oggetti in avorio in casa, piuttosto che l'utilizzo nei circhi o nei delfinari, la caccia, la pesca, qualunque forma di utilizzo animale. Ed è una vera e propria ideologia che, per carità, va benissimo, è quando viene veicolata e propagandata dicendo delle cose che non sono corrette che forse va un po' meno bene. E infatti una delle cose che secondo lei non sono corrette, lo spiega in questo libro, è, cito il titolo di un suo capitolo, no, non siamo fatti per vivere di vegetali, siamo degli onnivori. Corretto, corretto. Qua posso sbilanciarmi, come per larga parte del libro, non è secondo me. La scienza, da questo punto di vista, non ha il minimo dubbio. Il libro è un libro molto documentato da un punto di vista scientifico, anche se scritto in un linguaggio gradevole, accessibile a chiunque, ma vuole proprio andare a mettere i punti fermi su una serie di notizie di pseudoscienza e di disinformazione che, soprattutto online, ma da qualche tempo anche sui mezzi di comunicazione tradizionali, vengono veicolate, tra cui che l'uomo sarebbe fatto per vivere di vegetali e la carne gli farebbe male da un punto di vista anche di digestione anatomica, fisiologica. Sono sciocchezze vere e proprie. Noi siamo fatti biologicamente per mangiare di tutto, poi non è detto che dovremmo mangiarlo, ma biologicamente siamo fatti. Da un punto di vista evolutivo, sarà almeno 3 milioni di anni che noi e i nostri antenati consumiamo regolarmente carne e ci siamo addirittura evoluti grazie al consumo di carne. Poi uno può scegliere di non mangiarla, però non può mistificare le cose. Infatti lei scrive: è la carne che ci ha resi umani. Nel momento in cui questa risorsa nutrizionale ha assunto uno spazio significativo nella dieta dei nostri primordiali progenitori, l'ominazione ha compiuto un balzo in avanti. Possiamo guardare con serenità alla carne. Certo, ci sono state recentemente, periodicamente i mezzi di comunicazione danno notizia di alcune pronunce di organi che si occupano di salute pubblica, come l'OMS in primo luogo, che appunto nel 2005 aveva emanato una serie di comunicazioni allertando la popolazione su alcuni rischi legati al consumo di carne e di carne conservata. Però il vero punto fondamentale è che è tutta una questione di dose. Anche la stessa OMS diceva: mangiare tanta carne rossa, peraltro, fa male, può facilitare il rischio di alcuni tipi di tumori. Questa affermazione è diventata, nell'approssimazione collettiva e nel tam-tam di internet, che è molto importante, ma diventa un po' un telefono senza fili che distorce i messaggi, diventata: tanta carne rossa può far venire il cancro, la carne fa male, senza nessuna via di mezzo, senza nessun discorso di dose, senza nessun buon senso. La carne è un alimento ricchissimo di benefici, di nutrienti, va consumata con attenzione, come a dire il vero, tutto. E un altro equivoco che lei smonta è quello della cosiddetta naturalità. Sì, è vero, perché appunto si intende molto spesso che dovremmo in qualche modo ricorrere a solo ciò che è naturale, come se questo fosse in assoluto un valore. Per larga parte lo è, ma anche qui, quando guardiamo a certi cibi per noi naturali da un punto di vista fisiologico, anatomico, quant'altro, poi ci dimentichiamo che noi viviamo in una società integralmente artificializzata. Tutto ciò che ci circonda è stato creato dall'uomo, è stato manipolato dagli interventi chirurgici alla televisione, agli smartphone, agli aerei, alle automobili. La nostra vita, se fosse interamente naturale, sarebbe molto diversa da come la conosciamo, e anzi non sarebbe possibile la vita che conosciamo. Quindi io sono a favore della naturalità, ma anche qua con un buon senso. Ci sono invece atteggiamenti ideologici che rifuggono da tutto ciò che non sia naturale. Se fosse tutto naturale, vivremmo ancora nei boschi e nelle foreste con gli scimpanzé e gorilla, che a molti vegani piace prendere come esempio da imitare. La dieta vegana, come dicevamo, se è molto ben condotta e fatta bene, ci sono persone che la conducono da anni e stanno bene. Però appunto è una dieta che non è poi così immediato e banale seguire con attenzione, ci vuole un certo impegno, bisogna essere spesso anche seguiti, e se non si segue con attenzione ci possono essere delle conseguenze per la salute anche molto gravi. Le cronache hanno dato negli ultimi anni sempre più notizie, per esempio, di bambini ricoverati al pronto soccorso di genitori vegani in condizioni di brutale carenza di nutrienti fondamentali, in particolare la vitamina B12, che può provocare nei bambini, ma per certa parte anche negli adulti, atrofia cerebrale irreversibile. Quindi stiamo parlando di, come dire, delle ricadute sulla salute gravissime, per cui chi vuole essere vegano può esserlo, ma deve farlo appunto con grande attenzione, non semplicemente togliendo la carne, togliendo il pesce, togliendo le uova e quindi raffidandosi a quello che accadrà. Grazie a Luca Voledo, autore di No Vegan. Buona serata. Buona serata. Un libro di argomento alimentare politicamente assai corretto è quello di Simran Sethi, una giornalista ed educatrice specializzata in cibo, sostenibilità e cambiamento sociale, così si presenta, che ha scritto Bread, Wine, Chocolate, la lenta scomparsa dei cibi che più amiamo. È pubblicato da Slow Food, 424 pagine, 19,50 euro, tradotto da Davide Panzeri. Questo libro nasce a Roma, da dove l'autrice torna più cicciottella nel suo paese, grazie appunto alla cucina italiana, al punto da intraprendere un periodo di depurazione. Ma la missione professionale da giornalista, da reporter in una fabbrica di cioccolato, la spinge a questo reportage sui luoghi d'origine delle materie prime di cibi e bevande importanti come caffè, pane, vino e birra. L'autrice raccomanda perciò a un atteggiamento più sereno. Il mondo, scrivo, perlomeno ogni esperto di diete sane, ci invita a essere più ascetici, a mangiare più cavolo e bere più kombucha, è un'ottima cosa, ma non credo che lo si debba fare a spese del nutrimento per l'anima. Non stiamo su questo pianeta solo per sopravvivere, siamo qui per goderne a fondo e prosperare. E nel libro troverete anche alcune indicazioni pratiche, per esempio come degustare il caffè, accompagnando questo studio magari con una scheda che ci permette di incrociare i gusti e gli aromi possibili del caffè, con un'altra che ci aiuta a evitare i difetti peggiori. Ma forse noi italiani su questo siamo già vaccinati. Ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su RDS.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Riprendiamo con una brevissima testimonianza sonora che ci introduce a due argomenti. Lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali spacciatamente non hanno neppure bisogno di pareri verosimili perché sono vere. Questo era Gabriele Lavia che recita i sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, e di Pirandello Lavia parla nel libro Se vuoi essere contemporaneo, leggi i classici, pubblicato da PM, 214 pagine, 17 euro. Lavia parte in questo libro dalle considerazioni su che cosa sia un classico, per spiegarci che nei classici non sono io che mi identifico, ma è la mia essenza che corre per esempio attraverso l'oceano burrascoso della vita a inseguire Moby Dick. Quando leggo un classico non sono io, insomma, a identificarmi col protagonista, ma ritrovo il mio essere storico, cioè quel me stesso, scrive Lavia, che è parte della storia ed è storia. E in questo senso gli autori classici, aggiunge, sono i veri grandi rivoluzionari della storia, ma aggiunge, sono anche profondamente filosofi. Fa il caso per esempio di Molière, perché nei classici si trova sempre qualche cosa sicuramente che potrà cambiare la nostra vita smuovendo le nostre certezze. E quindi nel libro troviamo una lunga serie di classici, da Omero fino a Pasolini, una carrellata di grandi autori, e di questi ritratti vi propongo qualche riga dedicata appunto a Luigi Pirandello, di cui mercoledì prossimo ricorderemo il 150° anniversario della nascita. Pirandello ha raggiunto altissimi livelli sia come romanziere che come drammaturgo. Aveva la capacità di usare ogni volta il linguaggio giusto, riuscendo a scrivere teatro, letteratura, romanzi, racconti, saggi, tutto al massimo livello. Forse è il più grande di sempre. Scrisse Il fu Mattia Pascal in 10 giorni. Scrivere teatro, lo sappiamo, è più difficile, e quello che riuscì a scrivere quell'uomo lo rende il più grande drammaturgo di sempre. Forse pure più grande di Shakespeare. Scriveva rigorosamente a mano. La macchina da scrivere l'ha usata solo per una famosa fotografia. Non prendeva appunti perché preparava tutto prima nella mente. Passava tutta la notte a mettere a posto i tasselli. Così, quando si sedeva a scrivere, tutto fluiva già pronto. Scrive 6 personaggi in cerca d'autore in 3 giorni, anzi 3 mattine, perché nei pomeriggi scrive ciascuno a suo modo. Il debutto a Roma di sei personaggi in cerca d'autore il 19 maggio del 1921 al Teatro Valle è un fiasco. Silvio D'Amico quella sera fa finta di stare male pur di non andare a vedere la prima, così da non doverne scrivere né bene né male. Galeazzo Ciano, che all'epoca non ha ancora conosciuto la famiglia Mussolini, fa parte del comitato di difesa del signor Pirandello. Quella sera serve l'intero comitato schierato quando, all'uscita artisti del Teatro Valle, un drappello di uomini vuole picchiare Pirandello per quell'opera. Lui, che cerca rifugio in una carrozza insieme alla figlia, sente le urla e il rumore delle monetine che gli lanciano e che cadono sui sanpietrini. Di Pirandello ricordo che Newton Compton ha pubblicato l'intera produzione teatrale Maschere Nude, 1266 pagine, tutti i romanzi, 890 pagine, tutte le novelle, 1472 pagine, ogni volume costa 9,90 euro, poi c'è un'edizione delle novelle in tre volumi della Burr, oltre 3300 pagine, 46 euro, e poi vi segnalo una scelta delle novelle di Pirandello pubblicate da Einaudi, 12 euro, e un'antologia curata da Andrea Camilleri, sempre per la Burr, 12 euro, 556 pagine. Ritorniamo ai classici con Nicola Gardini, che ricorderete è il docente a Oxford di letteratura italiana che fu anche nostro ospite quando pubblicò un libro che ha avuto un grandissimo successo, Viva il Latino, e che torna con Ovidio, la felicità di leggere un classico, pubblicato da Garzanti, 190 pagine, 15 euro. Anche Gardini parte dalla definizione di classico, di cui dà questa definizione: un classico è un castello, di più una città, insomma una costruzione grande, immensa, che lascia bocca aperta. Tuttavia, per quanto accogliente sia il classico che ho tra le mani, per quanti ci siano già passati, io qui sulla mia poltrona ho la pretesa di entrarci da solo, di esserne lo scopritore. Anzi, in questo castello, città o costruzione immensa, io ci sto passando per primo e ammiro, non faccio che ammirare, quasi stessi assistendo all'inizio della creazione. Un classico, aggiunge, un modo di pensare e di raccontare il mondo. E qui ce ne presenta uno tra i maggiori, Ovidio, che l'autore va a visitare nella remota città oggi rumena dove morì in esilio nel 17 d.C. Nel libro troviamo un viaggio fra i versi di Ovidio, un viaggio scandito dalle parole dal poeta e dalle considerazioni dello studioso, che ci aiuta a riscoprire quel classico con degli aspetti che ce lo rendono particolarmente vicino e attuale, il tema dell'amore per esempio, ma sicuramente un tema che ci può attrarre molto in questo periodo è quello che Ovidio è caro della scrittura, come spiegano queste righe del libro di Gardini. Un grande studioso del latino fu Enzo Mandruzzato, morto nel 1212, che ha scritto Il piacere del latino, che è riproposto da Lindau, 382 pagine, 19,50. Mandruzzato, come dicevo, è stato un grande studioso delle civiltà classiche, un grande traduttore, appassionato divulgatore del latino, e in questo libro, attraverso l'esplorazione della lingua, l'autore ci fa ripercorrere e ricostruisce i tratti salienti della romanità e, naturalmente, il legame inestinguibile con l'italiano. Una delle pagine più drammatiche della romanità è certo rappresentata dall'esperienza dell'impero, di cui ci parla il libro di uno storico britannico, un grande divulgatore, Tom Holland, che si intitola Dynasty, ascesa e caduta dei Cesari di Roma, pubblicato dal Saggiatore, 472 pagine, 26 euro, tradotto da Camilla Pieretti. Il titolo evidentemente è accattivante per raccontare la storia dell'impero romano attraverso le vicende degli imperatori, soprattutto della dinastia Giulio-Claudia. L'impero fu un'istituzione che, scrive l'autore, in qualche misura i romani si aspettavano per rimettere ordine e restituire pace e serenità a un mondo ormai squassato dall'ostilità tra i vari protagonisti della vita pubblica romana. Ma l'impero naturalmente fu una realizzazione che certo tradì gli ideali che avevano retto per secoli la Repubblica. La storia dei Cesari è ricca di pagine nere, di scandali, di follie, la cui cronaca è tutt'altro che indiscutibile, ci dice l'autore, che anzi aggiunge: gli aneddoti riguardanti la dinastia imperiale, specchio delle paure e dei pregiudizi più profondi di chi li diffondeva, ci conducono nel cuore della psiche romana. Uno studio della discendenza di Augusto, dunque, è anche qualcosa di più, un ritratto dell'intero popolo romano. Non solo, tuttora noi non siamo immuni dal fascino perverso del periodo degli imperatori della famiglia Giulio-Claudia. A distanza di 2000 anni, scrive l'autore, anche noi, guardando all'epoca di Augusto e dei suoi eredi, riconosciamo nell'intreccio di tirannie e successi, sadismo e fascino, brama di potere e celebrità, un'aura dorata che nessun'altra dinastia è stata in grado di eguagliare. E dopo una breve premessa sulle origini di Roma, si parte dunque da Cesare Augusto, che riuscì a cogliere togliere la corona imperiale, e nel libro naturalmente ritroveremo proprio Ovidio, che dovrà scoprire quando sarà in esilio quella che è la grandezza della sua Roma. E a questo punto il confettino. Vi segnalo stasera un libro per lettori un po' grandicelli, nel quale viene presentato un personaggio forse tra i più cari e discussi dell'Italia del Novecento, Don Lorenzo Milani, di cui domani ricorre il 50° della morte, che avvenne all'età di 44 anni. Don Milani fu il celebre prete della scuola di Barbiana, che diventò un mito per l'Italia del 68 e per la sua vicinanza ai bambini poveri, i quali insegnava in maniera certo poco tradizionale nella sua scuola di Barbiana. Il suo insegnamento e la sua esperienza sono stati spesso anche equivocati o traditi, ma il fascino intellettuale di questa figura rimane ed emerge anche da questo libro di Fabrizio Silei e Simone Massi, Il Maestro, pubblicato da Orecchio Acerbo, 15 euro, dove si racconta attraverso la voce di uno scolaro di Don Milani la sua esperienza pedagogica e soprattutto la reazione che essa suscitò presso i ben pensanti dell'epoca. I genitori potranno avvicinarsi o riaccostarsi alla figura di Don Milani, che anche il Papa nei giorni passati ha ricordato e al quale ha reso omaggio, attraverso il libro del giornalista Mario Lancisi, La scuola di Don Lorenzo Milani, una lezione per i genitori, gli insegnanti e gli studenti, pubblicato da Sarnus, 200 pagine, 15 euro. L'autore ripropone in forma più agile un testo di 20 anni fa e lo fa anche per rispondere a molte critiche che nel tempo sono state espresse nei confronti dei metodi educativi di Don Milani, ai quali ha espresso riferimento appunto Papa Francesco. Uno dei critici più violenti di Don Milani fu lo scrittore Sebastiano Vassalli, che lo definì addirittura maestro improvvisato, manesco e autoritario, e qui in questo libro l'autore smonta queste accuse, completando il libro con alcune testimonianze, compresa quella della famosa professoressa alla quale il prete si rivolse con il suo libro, Lettera a una professoressa che aveva bocciato due studenti che provenivano proprio dalla scuola di Don Milani. Un altro libro è quello di Michele Gesualdi, che fu uno dei primi 6 scolari di Don Milani, che ha scritto Don Lorenzo Milani, L'esilio di Barbiana, è pubblicato da Edizioni San Paolo, 256 pagine, 16 euro, un libro basato sulle testimonianze e su lettere inedite per ricostruire la vicenda di Don Milani dal seminario fino alla prioria di Barbiana, dove il prete era arrivato nel 1954. Un altro anniversario ricordiamo martedì prossimo a Milano, e sono i 110 anni del più antico cinema in funzione d'Italia, il Cinema Centrale, che nacque nel 1907 come Cinema Mondial. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.